Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La notizia dai quotidiani locali è subito rimbalzata sui social network. Suora partorisce un maschietto ma non sa di essere incinta, strillavano le locandine. Lei, la protagonista, è una suora di 33 anni arrivata da molto lontano, San Salvador, in un convento di Rieti. Martedì notte, secondo il suo racconto, la religiosa ha avvertito uno strano mal di pancia che con il passare delle ore non accennava a diminuire, anzi peggiorava. Preoccupata, la suora ha chiesto alle consorelle di chiamare l'ambulanza per portarla al pronto soccorso più vicino e farla visitare. Per i medici dell'ospedale San Camillo dell'Elis di Rieti, una grande sorpresa e nessun dubbio. La suora era incinta e doveva partorire. Sono stati attimi di apprensione. Non sapevo di essere incinta, avevo solo un forte mal di pancia, ha ripetuto la religiosa, suscitando non pochi imbarazzi. Poche ore la suora ha dato alla luce un bel maschietto, 3,5 kg. Lo ha chiamato Ma Francesco. Ma non vi vergognate di aver tanto preso in giro la povera suor Roxana in questi due giorni? È stato l'argomento che più ha fatto fibrillare la curiosità e l'attenzione di tutti i talk show televisivi del fine settimana, figuriamoci, fino a ieri sera a Lucignolo ancora si parlava qualcosa del genere, si parlava della suora rimasta incinta suo malgrado o senza che lo sapesse inconsapevolmente, e tutti a scherzarci sopra, è stato lo Spirito Santo e probabilmente si è ricreduta sulla posizione del missionario e via dicendo, tutto quello che potrebbe indurre al salace commento della suorina salvadoregna, suor Roxana, che si è presentata all'ospedale di Rieti, luogo dell'entroterra sabino, paese molto chiuso, bella cittadina, fantastica, però una cittadina dove le cose accadono senza che si debba sapere, e naturalmente la sua frase di giustificazione, ma comprensibile, ma non sapevo cosa poteva essermi successo, ha subito suscitato l'ilarità più crassa, cominciando da Twitter, che è il grande megafono dell'idiozia nazionale, subito tutti a scherzarci, a riderci sopra, a fare i doppi sensi. Beh, io mi domando questa mattina, questa suora che tutto sommato, qual è la sua colpa? La sua colpa che ha fatto l'amore con una persona o è stata costretta a fare l'amore con una persona, ancora non è chiaro. È rimasta incinta, si è tenuta al figlio, l'ha partorito e adesso è tutta contenta, se lo tiene lo chiamerà pure Francesco. Ecco, perché improvvisamente un paese così porcaccione come il nostro, così infimo, così vigliacco, così basato sul sotterfugio, così basato sull'intrallazzo, così basato sull'infame porcheria consumata con la moglie dell'amico o con l'amica del marito e via dicendo, perché questo paese improvvisamente ha trovato il suo capro espiatorio, perché ha trovato questa suora che ha la sola colpa di avere infranto il voto di castità. Ma chi ancora secondo voi tiene fede a un voto di castità? Ma vogliamo fare il conto? E perché improvvisamente delle fantamilioni di preti di cui si parla, di vescovi, di arcivescovi, i capi delle guardie svizzere stanno facendo dichiarazione alla stampa internazionale sulla lobby gay, i vescovi che chiamano di notte i prodi alabardieri vaticani dicendo vieni un attimo nella mia stanza, c'ho un dolorino, mi devi fare un massaggino, oppure guarda mi è caduto qualcosa, mi devi aiutare a cercarlo, scusa non mi posso piegare, cose del genere. Ecco, su questo silenzio di tomba. Sulla povera suora, incolpevole, viene dal Salvador, pensate, l'avranno convinta, fatti suora, vedrai, l'hai preso, ha lasciato la famiglia, millanta fratelli probabilmente, se n'è andata a Rieti, in un altro buco del mondo, chiusa in un convento lì, con altre monache scucchione tutte intorno, torna un attimo in vacanza a casa, trova il suo vecchio fidanzatino e probabilmente sarà rilasciata andare a qualcosa che è perfettamente la norma, considerato perfettamente naturale, in paesi dove c'è molta più leggerezza rispetto all'atto sessuale, è tornata, vabbè, è rimasta incinta. Pazienza, qual è il problema? Beh, voi come la pensate? Vi sembra giusto che il sollazzo di questa fine settimana è stato proprio prendere in giro la povera suor Roxana? 800240024. Vuoi mica che parli della suora che è rimasta incinta, pensava di aver mangiato troppi fagioli? No, direi di sorvolare. Ti ho detto, ma non è possibile che sia incinta solo suora? ma non è mica un'anticoncezionale, suora. Cioè, c'è la pillola, la spirale e la suora, ma la suora si fa anche la suora, purtroppissimo. Ah, che ridere. Quanto ridere. Ecco. E le consorelle, com'è potuto succedere? Guarda, c'è solo un modo per cui succeda, madre. Certo, fa ridere che nel salottino del politicamente corretto, in cui il primo sussulto di qualsiasi categoria debole subito suscita l'alzata di scudi, la levata delle bandiere, la discesa in piazza, non venga considerata Suor Roxana una categoria debole, comunque da tenere protetta. Giù tutti a prenderla per il culo, tutti a ridere, la madre superiore che la difende. Che deve dire la madre superiore? Gli casca una pietra così grossa sulla testa, certo, in qualche maniera, anzi, devo dire che... detto da me, ha un senso, perché di tutto mi si può accusare meno di avere simpatie o tendenze neoguelfe o clericali. Sono quelli che hanno fatto la miglior figura. Il vescovo ha detto quello che doveva dire. Cioè, certo, dovrà lasciare il suo stato monacale, perché una che rimane incinta non può continuare a fare la suora, ma ne terremo conto. Anzi, un imprenditore reatino, perché in fondo è gente di campagna, è gente di cuore, ha detto: me ne occupo io di questo bambino. E sarà un bambino felice, avrà una perfetta mamma. Forse un domani si farà vivo anche il padre, a meno che non sia il parroco del convento o qualcosa del genere. Magari avrà anche un padre, magari farà simpatia, magari la vedremo nei talk televisivi. Ma in un paese in cui, ad esempio, per la gravidanza di Carmen Russo e di suo marito, che sfioravano i 60 anni, abbiamo avuto una sorta di reality gestatore che è durato mesi, mesi dopo mesi, e le ecografie, e i pannolini, e i vestitini, una sorta di oscena rappresentazione di qualcosa che sembra che nel nostro paese sia tanto importante, sembra che l'unica vera categoria da proteggere sono proprio i bambini, l'embrione, la sacralità e via dicendo. Ecco, di fronte a un fatto che in fondo mette anche allegria, alla fine se l'è tenuto, poteva sbarazzarsene, poteva liberarsene in maniera molto semplice, molto veloce, in maniera clandestina, in maniera legale, poteva comunque farlo, e se l'è tenuto. E nessuno di quelli che levano gli scudi, che fanno gli obiettori di coscienza, in questo momento dice: ma prendo io la parte della suora, la difendo, ha fatto bene questa suora, posso difenderla. Guardate che io che difendo una suora non mi è successo in vita mia, ma sono talmente indignato di questa sorta di ipocrita presa in giro da parte di quello che c'è di più schifosamente politicamente corretto nel nostro paese, che chiedo il vostro aiuto per confortarmi il vostro parere. Magari sono io che sbaglio, magari ho passato una brutta giornata e quindi vaneggio. 800240024. Essere fatte le consorelle della suora che finora non le hanno fatto ancora visita. Il vescovo di Rieti ha fatto sapere che la diocesi è vicino alla suora, che molto probabilmente sarà lei stessa a chiedere di lasciare l'istituto religioso per aver cura del bambino. Suor Erminia, la madre superiora del convento, commenta la notizia dichiarando: ha fatto tutto da sola, non ci siamo accorte di nulla, lasciateci in pace. Ed aggiunge ancora: non ha saputo resistere alle tentazioni, non ha fatto del male a nessuno, e proprio non riesco a capire perché ci sia così tanta attenzione attorno a questa storia. Perché? Perché siamo un paese ipocrita, siamo un paese clericale nella maggior maniera di essere clericali. Clericali senza credere in Dio, che è una cosa terribile. Uno si arruffiana ai preti perché pensa che possa avere dei vantaggi nella propria esistenza, ma in realtà se ne ride di quello che è il dettame principale, se uno vuole essere un buon cristiano: seguire i comandamenti, comportarsi correttamente, non prendere in giro il Padre Eterno, se lui ci crede. Beh, anche su questo fatto ha fatto tutto da sola. Ieri continuavano nel salottino di Fazio a ridere sul fatto: ha fatto tutto da sola. E beh, in questo ci vuole un po' d'aiuto. Parla Fazio, grande esperto in trombature, sicuramente ne saprà più lui di Matusalemme. Però perché prendere in giro questa povera sorina? Perché non prende in giro qualcun altro dei tanti personaggi importanti che in questo momento potrebbero avere dei lati boccacceschi o lati riferiti alla loro attività sessuale? Perché su una cosa che in fondo meriterebbe così rispetto si sono tutti divertiti, tutti scompisciati. Guardate, io sono una persona che viene dalla terra umbra, la mia vita l'ho passata a prendere in giro i frati cercatori e a comprare le statuette assisi del frate che gli pigiavi la testa, usciva fuori lo spadone a molla. Quindi figuriamoci se mi pongo un problema di ridere il clero. Ma in questo caso sono veramente indignato. Adalberto, buongiorno. Finalmente qualcuno che mi fa prendere un po' fiato. Buongiorno a voi. Allora, niente, io appunto volevo intervenire per questo fatto qui. Ma la suora, prima di essere suora, era donna. Dopo che si è donne, l'essere mamma è la cosa più meravigliosa che sì, vabbè, la suora se deve, adesso non è che devo darle io, se una diventa suora smette di essere donna, perché no, aspetti, la Madonna è la prima mamma della terra. Sì, prima mamma, però che ha partorito vergine, quindi c'è sì, molto a discutere su questo. Suora è un titolo. Mamma è la natura, e lei è una donna, è meraviglioso che sia diventata mamma. Scusi, ma allora secondo per questo ragionamento tutte le suore potrebbero diventare mamme, secondo lei? Perché no? Sono donne. No, no, sì, sono donne. Non è che sono d'accordo, scusi, esiste una regola, vede? Non è che si può a martellate adattare la dottrina della Chiesa secondo i nostri piani. Anche a me piacerebbe vedere i frati e le suore che ballano come nelle immagini di quei pittori naif di Spello, capito? Che sono le suorine che ballano sui tetti. Beh, in realtà se fa le suore, se ancora esiste questa istituzione, mettono il velo e non dovrebbero trombare. In teoria poi fanno quel che vogliono. Allora io intanto intendo che ha fatto l'amore, non ha trombato, ha fatto l'amore. Beh, le cose corrispondono più o meno molte volte, comunque va bene. Io sono del parere invece che bisogna elogiare questa donna che ha avuto il coraggio di fare l'amore. Che non abbia fatto niente male, sono d'accordo. Infatti nessuno la condanna, nessuno la vorrebbe vedere bruciata nel rogo. Però la prendono in giro, che è ancora peggio. Una società corrotta nei costumi come i nostri, in cui si deve ancora trovare il timone di quella che sarà la nuova definizione della correttezza nei rapporti, visto come si è sfasciato tutto, non esiste più la famiglia, non esiste più una condotta legata al contenimento delle proprie pulsioni. Mi sta bene tutto, figuriamoci, io sono per la riscrittura di qualunque modello, ma perché proprio sulla sorina si sono accaniti tutti. Rosy, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Sono pienamente d'accordo su quello che dice lei. Guardi, lo dico per specificare, io quando passano le suore al volante mi tocco perché ho sempre paura. Non è che sono uno che di principio difenda le suore perché sono suore, ma in questo caso sono indignato perché è una persona debole. Ma sì, una persona debole, ma poi perché non vedere il bello di questa storia? Perché vedere sempre il peggio? Viviamo in una società misera, in una società di miserabili che sono sempre lì a puntare il dito, a sindacare, a sputare, mi lasci dire, merda, sempre dappertutto. Io vivo in una situazione, in un'azienda, e non dico qual è l'azienda, sotto i miei occhi vedo un tradimento così alla luce del sole, lei che tradisce col capo che è il cugino del marito. È tutto in famiglia, vedi, alla fine. È tutto in famiglia. È un patrimonio che resta in famiglia, è sempre. Certo, è tipico resta in famiglia. E quindi questa suora, voglio immaginare questa bellissima storia, questa suora che è ritornata al suo paese, ha rincontrato il suo bellissimo amore, un amore magari della sua adolescenza. Ha fatto l'amore perché cosa c'è di più puro? Fare l'amore con il proprio amato. Ma a me piace anche se non è puro, detto fra noi, non è che voglio adesso difendere concetti cristallini. Poi questa cosa mi sembra un iter da rispettare. La suora sradicata dal Salvador, fatta suora, gli hanno messo in testa che quella cosa fa male farla, è brutta e rovina l'anima. Torna a casa, rivede il suo amore, per un attimo se lo dimentica. È una cosa veniale. Un istante, ci fermiamo, traffico, continuiamo. Finalmente arrivano le telefonate. Melog, cronache meridiane. Sento più mamma che suora. Sono le prime parole di suor Roxana Rodriguez a 4 giorni dal parto del suo bambino, che ha destato scandalo a Rieti. La monaca parla con l'assistente sociale mentre allatta il piccolo Francesco. L'assistente sociale assicura che Roxana è tranquilla e non ha sensi di colpa. Lascerà il convento per andare da un'amica, probabilmente a Roma, dove potrà accudire il suo bambino. Tutto è successo in Salvador, racconta Don Benedetto, direttore della Caritas diocesana, tra marzo e aprile dell'anno scorso, quando la suora è tornata a casa per rinnovare il suo passaporto. Lì ha incontrato un suo amico, un ritorno di fiamma di un'amicizia giovanile. Mi viene a pensare che la suora non ha sensi di colpa, ma è giusto, non ha sensi di colpa perché è una persona sana. Magari se vogliamo fare la riflessione è su quanto ci sia di sincera vocazione su questi signori e signore che vengono da paesi lontani, da paesi molto poveri, rimpolpano i ranghi dei conventi che sono piuttosto spopolati. Non c'è frazione d'Italia, non c'è paesino che abbia un prete che viene dal Ghana, che viene dal Salvador, che viene dal Sud America, cinese, adesso non so. È il vero problema delle vecchie di paese che non si vanno a confessare perché il prete è nero. Non è che lo dico per seminare zizzania, l'ho toccato con mano, ma perché molte volte invece è molto più vicino ai loro problemi che un garrulo pretino che ha fatto il seminario nei posti ragazzi più fighetti del nostro paese, perché in fondo, sai, i problemi basici delle persone sono gli stessi, le tensioni sono gli stessi, la vera profonda equazione è quello che succederà quando chiudiamo gli occhi, è come gestire la nostra vita nello spazio velocissimo che ci rimane a disposizione cosciente di poterla gestire. Questa sorina probabilmente si è fatta due conti, è tornata a casa, ha detto: ma chi me lo fa fare di star chiusa a Rieti con le suore a far finta, a prendere in giro? Ma io mi rimetto col fidanzato e poi quello che succede succede. Mi viene a pensare un'altra cosa, lo dico proprio per i furbacchioni che ci ridono sopra. C'è un programma su Real Time, Non sapevo di essere incinta, che è un documentario in una delle televisioni più fighette, più seguite, più trendy che ci sono, che piacciono anche alle persone di grande cultura perché hanno il modo di toccare con mano quello che sono le bassezze dell'umanità. Quindi sono malattie imbarazzanti, persone che hanno le case schifose, le cucine piene di schifezza e che non si vogliono separare da tonnellate di animali, quindi tutti li guardiamo, diciamo, vedi, quelli stanno peggio di noi. Beh, c'è questo programma, si chiama Non sapevo di essere incinta, dove ci sono una serie di ragazze che appartengono a famiglie medie dell'umanità, benestante, illuminata e ben pensante, che sono rimaste incinta e erano completamente inconsapevoli di come sono rimaste incinta. È già la terza edizione e ci sono queste ragazze che raccontano come i loro piccoli sono arrivati a sorpresa, non sapessero di essere in dolce attesa. Ci sono storie incredibili, ma tutto può succedere, si fanno tante cose che uno pensa che non si arrivi all'attimo estremo o all'estrema conseguenza, e molte volte solo lo sfioramento può creare questi problemi, ma è qualcosa vecchia come il mondo. Marco, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Magari i sensi di colpa dovrebbero avercene qualcun altro. Ma no, i sensi di colpa uno pensa ai propri, quelli degli altri. Appunto. Ma io volevo solo dire che niente di eccezionale, perché... È d'accordo con la nostra linea oggi, dire ma viva la suora, basta di prendere sì, in sì, giro. No, perché prima, innanzitutto, prima di essere suori, preti, noi siamo esseri umani. Quindi prima di essere suora uno è una donna. E penso anche che Gesù fosse così, perché lui si è fatto uomo. Sì, adesso andiamo sul concreto, però, perché Dica. Parliamo a tutti, anche chi dice che, ma sai, me la religione è qualcosa che non mi interessa, però sì, sul fatto umano mi soffermo. Le faccio un esempio: la cronaca di un paio di anni fa beccarono proprio davanti a Villa Borghese, in un luogo di battuage notturno, un bel pretone che era pieno di Viagra, di attrezzi vari, che stava lì a cercare ragazzetti. Beh, su questo non mi sembra che si siano tanto stracciati le vesti tutti. Questa povera ragazzina, in fondo, cosa ha fatto per meritarsi l'ironia e lo scherno? Perché la condanna sarebbe già qualcosa di più glorioso. Tutti dicessero a rogo, fazzo le tizzetto, andassero coi furconi e le fiaccole. Avrebbe per lei un senso di maggior dignità. Ma che la prendano in giro non lo sopporto. No, l'unica cosa che si può prendere in giro, che mi ha fatto sorridere, è quando ho detto non mi sono accorta di essere incinta. Una donna si accorge di essere incinta. Vabbè, ma cosa vuole che dica? Ma poverina, ma non saprà manco bene l'italiano. Circondata dai medici che la prendevano in giro, ma certo che se ne è accorta, è chiaro che se ne è accorta. Cosa doveva dire? Ha impapocchiato quello che ha impapocchiato. Ci sono fior di ragazze in ottime famiglie che partoriscono nella tazza al gabinetto e tirano lo sciacquone, nessuno se ne accorge. Fabrizia, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Ma diciamo che è la prima volta che intervengo, perché questo caso mi ha particolarmente... L'abbiamo stimolata. Sì, sì, perché, cioè, come diceva giustamente lei prima, due cose mi danno molto fastidio nell'atteggiamento in generale degli italiani e di media di alcuni. Cioè, l'ipocrisia e la morbosità. Cioè, no, io non sono religiosa, ma poco importa, non sono tante cose. Però il ne sarà altre, per sua fortuna. Sbattere sempre il mostro in prima pagina, questa è una cosa, anche quando succedono altri fatti di cronaca, in generale è diciamo molto, molto ipocrita. Sì, ma se il mostro massacra sei bambini con la motosega, può anche starci, ma questa che ha fatto di male, a parte sì, sì, poi in questo caso effettivamente, insomma, è una ragazza che si è trovata di fronte qualcosa di molto più grande di lei, cioè tutta l'istituzione... Adesso questo non lo sappiamo, comunque... No, tutta l'istituzione... Utile a metterla incinta, ecco. Sì, no, vabbè... Diciamo un'istituzione, ecco, più grande di lei. Poc'anzi il signore diceva, mi ha stupito il fatto che dicesse non so come è successo. Probabilmente la prima cosa che gli è venuta in mente, forse anche per, non lo so, per difendersi. Ma lei cosa direbbe? Ma anch'io direi, ma non so, boh. Come quando i mariti vengono presi in flagranza di adulterio, dico, ma chi è questa qua? Non so chi sia. È chiaro, ma noi ci giustifichiamo sempre. Sta girando su YouTube un frammento di un film di quelli che vanno tanto e fanno ridere, tipo le satire dei grandi. Cioè, si vede un signore in piedi che parla con il medico dice, guardi, ha dei problemi, adesso deve attendere un attimo se la detumescenza dei corpi cavernosi, anzi abbiamo chiamato sua moglie, è venuta a vederlo un attimo, si vede il suo sconcerto, si allarga l'inquadratura. Davanti al signore c'è inginocchiata una ragazza con cui era rimasto attaccato, entra la moglie, lo vede in quella condizione sul lettino del pronto soccorso, con quella inginocchiata attaccata a lui, dice, ma chi è questa qua? Io non so proprio chi sia, guarda, ti giuro, non so come sia caduta qua. Ecco, questo è il nostro tipico atteggiamento quando siamo colti in un momento imbarazzante. E la sua cosa doveva dire? Non può dire non so come è successo. Giuditta. Pronto? Eccomi. Senta, io mi chiamo Giuditta, telefono da Caviana, comune di San Buca Pistoiese. E devo dire che apprezzo più questa suora che si è tenuta il suo bambino che tante altre che probabilmente sono rimaste incinte da un abortito. Vabbè, questo non lo sappiamo quante sono. E se tutte le rose fiorissero, il mondo sarebbe un gran giardino. Eh sì, basta che non sono troppe, perché dopo... siamo un popolo di puritani. Sì, questo è vero. E così ci scandalizziamo quando una persona... Lei non si è scandalizzata. Ecco. Lei non si è scandalizzata. Vabbè, Anna. Sono io, buongiorno. Senta, io sono pienamente d'accordo con lei. Oggi avete tutte le voci da suore, ma lo fate apposta o realmente siete... No, ma soprattutto sono d'accordo per quell'ipocrisia strisciante. In fondo questa ragazza magari per una questione di scelta ha preso l'ordine, è stata reclutata. Come ha detto giustamente il nostro Papa tre settimane fa, basta il reclutamento negli ordini delle suore, senza magari una vera chiamata. Ecco, lei Anna, lo sa che aggiunge un punto importante. Io l'ammiro per quello che lei ha fatto, ma soprattutto ammiro lei che ha avuto il coraggio di... Anna, lei è importante, lo sa, perché mi ha dato un elemento che non conoscevo. E aggiungendolo appunto alle parole del Papa, ha detto basta di fare reclutamento coatto delle persone dai paesi del terzo mondo per dargli un avvenire, fargli preti e suore. Questa è la dimostrazione che in realtà deve essere ben sedimentata la vocazione, anche la castità. A domani.